Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Simone Totola di Officine Ubu, che distribuisce il film Io sono qui di Eric Lartigot al cinema da giovedì 14 ottobre 2021. Simone, ben trovato. Ciao, buongiorno, ben trovato. Cosa racconta questo film? Racconta la storia di Stefan, che di professione fa lo chef e vive nei Paesi Baschi. Conduce una vita tutto sommato tranquilla, forse anche troppo, nel senso che ha un ottimo rapporto con l'ex moglie, con i figli, il suo ristorante va bene, eppure c'è qualcosa che nella sua quotidianità non lo soddisfa. Un giorno conosce su Instagram una donna coreana e tra i due inizia subito un rapporto molto forte, nonostante la distanza. Si ritrovano a parlare di arte, di ciliegie in fiore, e quindi questo rapporto a distanza che si basa su un social network riesce un po' a risvegliare Stefan dal torpore della sua quotidianità. Fino a quando un giorno, dopo un piccolo incidente a cui va incontro Stefan, decide di cogliere l'attimo e di partire per Seul, quindi per andare in Corea a conoscere questa donna che di nome è Chasou. Quindi lui da un giorno all'altro prende questo aereo, parte per la Corea, avvisa So del fatto che la sta andando a conoscere a Seul, lei gli promette di andarlo a prendere in aeroporto, lui arriva, lei non si presenta. E quindi lui rimane un po' spaesato, ci rimane molto male, perché si ritrova dall'altra parte del mondo e la promessa che questa donna gli aveva fatto non è stata mantenuta. E quindi da lì inizia, diciamo, questo viaggio in realtà che Stefan fa a partire dall'aeroporto di Seul e poi in tutta la città alla ricerca di questa donna, che ad un certo punto lui inizia anche ad avere il dubbio che forse questa persona non sia nemmeno mai esistita. È un film molto atipico, nel senso che è una commedia romantica ma che non ripercorre le solite strade di questo genere di film, mette molto in gioco e gli imprevisti sono veramente tanti. Ecco, oltre all'originalità, quali sono gli elementi di pregio, secondo te, di quest'opera? A partire dalla regia del film, nel senso che il film è diretto da Eric Lartigot, che è il regista del film La famiglia Bélier, commedia francese che è uscita qualche anno fa e che ebbe grandissimo successo in tutto il mondo e anche in Italia. Poi abbiamo i due protagonisti, che sono Alain Chabat, che è un attore francese molto bravo, che ha lavorato con Michel Gondry, ha lavorato con Luc Besson, ha fatto un sacco di film molto riconosciuti dalla critica, e l'attrice che interpreta So è Duna Bay, che per quelli che hanno visto Sense8, la serie di Netflix, la ricorderanno perché è una delle protagoniste. È un'attrice che ha lavorato anche con Koreeda, con Park Chan-wook e con i migliori registi coreani, e anche con Bong Joon-ho, il regista di Parasite. Quindi insomma, anche il lato cast, il lato tecnico è sicuramente un valore aggiunto ad un film che fa dell'originalità e anche però della delicatezza, di questo mood sognante, sicuramente i suoi punti di forza. Che distribuzione ha avuto all'estero? Che fortune ha avuto? Il film è uscito fortunatamente in Francia prima della pandemia, è uscito veramente poco prima ed è riuscito a fare il suo percorso e poi è stato acquisito in tantissimi altri paesi, poi purtroppo ci si è messa la pandemia di mezzo e quindi le tempistiche di distribuzione si sono un po' dilatate. Noi riusciamo finalmente a farlo uscire adesso, quando il pubblico insomma sta un po' ritrovando la voglia di tornare in sala a vedere i film, e quindi ecco, il percorso che ha fatto è questo, insomma, aveva iniziato un lancio molto importante prima della pandemia e adesso stiamo cercando insomma di fare in modo che possa trovare gli spazi migliori per essere visto da più persone possibili. In quante sale? Siamo in circa 40 sale in tutta Italia, Se volete trovare l'elenco di dove poter vedere il film, basta andare sul nostro sito che è www.officineuvo.com, nella parte dove c'è l'elenco sale, lì si possono trovare tutte le città che programmeranno il film. Io sono qui di Eric Lartigot al cinema da giovedì 14 ottobre 2021. Un saluto e un ringraziamento a Simone Totola di Officine Ubu che distribuisce il film. A presto! Grazie, grazie Federico, a presto, ciao! Con Claudio Puglisi dello Scrittoio, che insieme a Double Line presenta il film Days di Tsai Ming-liang al cinema da giovedì 14 ottobre 2021. Ben trovato! Ben trovati a voi! Raccontiamo brevemente la storia di questo lavoro? Partendo dal fatto che è un lavoro, appunto, come viene definito da più parti, minimale, perché è un film molto di immagine e molto poco di parola, racconta semplicemente la storia di due uomini che, appartenendo a classi sociali differenti, in un'occasione fortuita si incontrano, si conoscono e ne nasce una storia che probabilmente lascerà traccia in entrambi e che riesce a essere coinvolgente per il pubblico, per gli spettatori, nonostante appunto sia una storia che viene raccontata attraverso l'immagine più che attraverso la parola. Anzi, c'è un piccolo aneddoto: nella primissima versione che era circuitata per i festival, primo fra tutti quello di Berlino l'anno scorso, il regista aveva specificato in un cartello iniziale: questo film è volutamente non sottotitolato. Era un po' una piccola provocazione, tra l'altro molto apprezzata dal sindacato critici, che l'aveva poi lo ha premiato come film dell'anno 2021, perché effettivamente di dialoghi ce ne sono talmente pochi che ha ritenuto che non dovessero essere nei festival del sottotitolato. Poi evidentemente nella circuitazione nazionale lo spettatore rimarrebbe spiazzato se si trovasse qualche dialogo incomprensibile e di conseguenza si è dovuto togliere quel cartello iniziale, perché avrebbe altrimenti fatto contrasto con qualche sottotitolo che, pur sparuto nel film, compare. Cosa hai apprezzato di quest'opera? Sicuramente la capacità appunto di coinvolgere semplicemente con lo sguardo della macchina da presa, con il suo indugiare sui personaggi, sulle situazioni, sui loro stati d'animo, riuscendoli ad estrarre e a portare fino allo spettatore senza fargli dire quasi nulla. È proprio una delle regole base, no? Che dovrebbero essere una delle regole di base del cinema, il famoso show don't tell, che sempre si sente raccontare e dire agli studenti quando devono imparare a scrivere il cinema, no? Mostra è non dire. Questo è stato fatto magistralmente in questo, come nei suoi lavori precedenti, da Tsai Ming-liang. Ecco, cosa sappiamo di questo regista a proposito dei suoi film precedenti? Intanto dobbiamo dire che è un regista che è un leone d'oro di Venezia con il film Vive l'amour già nel 1994 e che ha ricevuto premi e riconoscimenti un po' in ogni angolo del mondo, nei principali festival, con film come Il gusto dell'anguria, Che ora è laggiù, o con Stray Dogs, che era stato decisamente apprezzato sia dalla critica che dal pubblico 7 anni fa. È un regista che non ha un'iperproduzione, ma nonostante questo lascia sempre il segno ogni volta che fa un film. Il film che circuitazione ha avuto all'estero? Nella maggior parte dei paesi europei è stato acquisito, è uno dei tanti film su cui ancora i dati sono molto parziali, perché Berlino 2020 ha coinciso purtroppo con l'inizio della famigerata pandemia che ha praticamente bloccato tutto, quasi tutto a livello cinematografico in Italia come nella maggior parte dei paesi, e di conseguenza, così come in Italia sta uscendo solamente ora, pur in un periodo affollatissimo, ma prima o poi questo film, come tanti altri, doveva uscire, così anche in altri paesi sta accadendo. Quindi aspettiamo e cerchiamo di capire, vedremo chi sarà stato più capace di farlo apprezzare dal proprio pubblico nazionale. In quante sale? Come dico sempre, per questo tipo di film d'autore, quando dico d'autore è con la A maiuscola davvero, la data di uscita è davvero l'inizio di un percorso, nel senso non significa uscire in 10, 20, 30, 50 cinema sparsi nell'intero territorio nazionale in data, ma significa iniziare a far circuitare il film sul territorio nazionale per raggiungere il maggior numero di sale possibili a partire da quella data. Quindi se da un certo punto di vista partiamo nelle prime due settimane con una quindicina, ventina di città che hanno coraggiosamente aderito alla scelta di questo film, poi lavoreremo sicuramente nei mesi successivi anche, magari speriamo un pochino meno lati di questo, alla continua circuitazione di questo titolo. Il film Days di Tsai Ming-liang al cinema da giovedì 14 ottobre 2021. Saluto e un ringraziamento a Claudio Puglisi dello Scrittoio, che distribuisce insieme a Double Line. A presto! Grazie anche a voi. Una piccolissima solo precisazione a cui tengo molto: noi davvero collaboriamo a questa distribuzione con Double Line, il titolo è un titolo principalmente Double Line e lo Scrittoio collabora alla sua distribuzione. Questa etichetta si sta infatti attestando come una di quelle che magari comprano pochissimo prodotto ma cercano davvero di andare a recuperare sui vari mercati tutto quello che sia sfuggito alla grande distribuzione. Grazie ancora a tutti voi. Con Giovanni Coda, regista del film La storia di una lacrima, a Roma al Cinema Farnese dal 12 al 17 ottobre 2021. Ben trovato. Buongiorno a tutti e grazie. Che storia ti racconta? Il film si è ispirato a Ocean Termina di Pier Giorgio Velbi, curato da Francesco Lioccia, quindi il tema è l'eutanasia. Un lavoro che chiaramente segue un po' il filone della mia cinematografia, che si basa sul narrare storie, in questo caso la storia di Pier Giorgio Velbi, insomma, che io ho seguito anche durante il periodo clou, le sue richieste, mi sembrava una bella storia da raccontare, necessaria soprattutto. A questa, la storia di Pier Giorgio Velbi, si uniscono nel film anche dei tratti suoi, Luana Anglaro, del Ciomagri, Luca Coscioni e altri che comunque portavano avanti questa istanza. Come era nato il progetto? Seguendo appunto le istanze appunto di Pier Giorgio Velbi, leggendo il libro chiaramente Ocean Terminal, che appunto poi abbiamo sintetizzato in poche note comunque nel film, e poi piano piano siamo appunto riusciti a entrare in produzione, anche se appunto abbiamo avuto uno slittamento di oltre un anno a causa Covid. Il film è stato girato negli spazi liberi che comunque il Covid ci ha concesso, nelle varie ondate praticamente, anche se poi iniziato le prime riprese sono iniziate nel 2019. Cosa avevi apprezzato del libro di Velbi? Lo spirito combattivo di Velbi, lo spirito politico, morale, soprattutto poi la parte più centrale è raccogliere l'essenza di quel libro, che poi si è sintetizzata nella lettera al presidente praticamente, che appunto dà la dimensione della profondità appunto della richiesta di Velbi, insomma, di questo diritto mancato, di questa esigenza di arrivare al punto, era una situazione che appunto venga definita, si definisse in quel caso, per procedere con i suoi intenti, per portare avanti quello che comunque lui si era prefisso di fare. Come avete deciso la trasposizione cinematografica? Su cosa avete puntato? È basata su un impianto completamente fotografico e surreale. Questo è metaforica, chiaramente rispecchia quello che è la mia cinematografia fino ad ora. Io lavoro per metafore, lavoro per suggestioni, per quadri fondamentalmente. È un'ibridazione fondamentalmente, ecco, possiamo definire un'ibridazione fra la documentazione, quindi il documentario, e un cinema più o meno sperimentale, come appunto lo ha definito Adriano Brandi. Come avete inserito poi i riferimenti alla Anglaro e agli altri? Sono inseriti in una sceneggiatura che è un unicum fondamentalmente, il testo è narrato, non c'è recitazione dal punto di vista tecnico, cioè battute fra attori, ecco. E un'ibridazione anche con l'arte performativa, quindi in scena ci sono dei performer che portano all'interno della loro performance parte di questi testi, ecco, e evocano questi testi. poi si rievoca uno con l'altro. C'è un passaggio fra il performer e il testo, e il testo e il performer. Ognuno evoca comunque qualcosa, un principio, e questo poi viene assorbito dallo spettatore come un unicum, appunto. Che tipo di distribuzione avete pensato? Al momento il film viene distribuito nei festival. Facciamo la premiere al punto al Cinema Farnese, dopodiché spostiamo il film sempre in presentazione il 18 al Cinema Centrale a Torino. Adesso organizziamo una serie di presentazioni e vediamo anche poi la risposta del pubblico. La presentazione poi si sposta a Cagliari. Cagliari è la città dove è stato poi girato, in collaborazione con la Sardegna Film Commission. E quindi una presentazione ufficiale sarà fatta anche qua. All'estero il film invece alla Social Justice Festival fa la premiere mondiale praticamente a Seattle. È già stato a Dublino, è già stato a Londra dove ha vinto il premio come miglior documentario al New Renaissance Festival. Poi sarà appunto a Syracuse e a Sant'Antonio in Texas. Questi sono i festival che hanno già accolto positivamente, quindi selezionato il film. Dopodiché vediamo anche di affrontare il problema appunto distribuzione, perché è sempre un problema, e troveremo sicuramente una soluzione. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Si può trovare tutto nella mia pagina Facebook, Giocoda, quella è la pagina che per il momento contiene tutto il materiale e tutte le news. E anche il percorso del film, oltretutto il processo proprio di produzione, perché l'abbiamo documentato. Il film La storia di una lacrima, a Roma, al Cinema Farnese, dal 12 al 17 ottobre 2021. Un saluto e un ringraziamento al regista Giovanni Coda. A presto! Grazie, a presto, buona giornata. Con Fabio Cavalli, regista del documentario Re Bibbia Lockdown, a Roma, il nuovo Cinema Aquila, mercoledì 13 ottobre 2021. Ben trovato. Buongiorno a tutti, ciao a tutti. Questo nuovo lavoro di cosa si parla? Re Bibbia Lockdown, il titolo dice tutto. Il carcere al tempo del coronavirus. È un film documentario con una componente di documentazione diretta con interviste, una componente di ricostruzione di fatti con le telecamere e la terza componente, quando si è trattato di raccontare le rivolte nelle carceri italiane nel mese di marzo, del primi di marzo del 2020 e poi con conseguenze gravissime nelle settimane successive con delle ritorsioni da parte di alcuni gruppi di agenti penitenziari, tutti ricordano i fatti di Santa Maria Capua Vetere. Certo. Bene, quegli aspetti, poiché non eravamo lì con le telecamere, se ci fossimo stati ci avrebbero mandato indietro e non potevamo in nessun modo rendere visibile quello che era successo, ho pensato di affidare a un grande disegnatore fumettista, Alessandro Degnino, la rappresentazione in animazione di quei fatti. Quindi sono tre elementi di narrativi che si intrecciano. Cosa è accaduto nel 2020 nelle carceri dal punto di vista dei detenuti, degli agenti e dei responsabili delle strutture, diciamo i vertici così. Dall'altra parte chi si è prodigato perché non si interrompessero i contatti tra dentro e fuori, cosa che invece è accaduta purtroppo perché il virus ha dilagato anche nelle carceri. E quindi chi poteva far fronte a questo? Degli studenti incaricati da Paola Severino, l'ex ministro della giustizia, degli studenti della LUIS, a cui viene richiesto di non perdere contatto con i detenuti di Re Bibbia attraverso un epistolario che si dipana in un centinaio di lettere nell'arco di mesi. E questa è la parte che io ho ricostruito come film, perché è chiaro che io non ero lì con le telecamere a casa dei ragazzi quando scrivevano e nella cella dei detenuti quando rispondevano alle lettere. Questa parte è descritta attraverso una ricostruzione dove ciascuno degli interpreti, dei protagonisti, siano essi detenuti, sia Paola Severino, siano essi questi quattro studenti della LUIS, interpretano se stessi ex post, cioè dopo che i fatti sono accaduti. Che cosa ne viene fuori? Ne viene fuori che mentre in alcune carceri italiane i detenuti venivano massacrati da gruppi di, chiamerei, facinorosi agenti, con responsabilità anche di vertice gravissime, a Re Bibbia noi giravamo un film. A Re Bibbia noi portavamo la fibra ottica, attivavamo l'educazione teatrale a distanza, creavamo la possibilità di rapporto tra gli studenti e i detenuti, non li abbiamo persi di vista se non proprio nel mese di marzo-aprile quando noi eravamo tutti chiusi in casa, ma presto, già il 4 maggio del 2020, con la fibra noi siamo entrati attraverso Skype, insomma le videochiamate in carcere, e questa è l'altra faccia, la faccia nascosta della luna. Noi della luna vediamo la violenza, l'aggressione, vediamo la rabbia, la frustrazione, le rivolte e le reazioni furibonde degli agenti contro i rivoltosi, cosa inqualificabile. Dall'altra parte però c'è la faccia nascosta della luna, quella che noi non vediamo mai e che le telecamere di Rai Cinema, mie, insomma di Clipper Media, hanno provato a documentare. E credo che ci siamo riusciti, siamo andati dietro la luna a vedere cosa accadeva altrove. Che non fossero le telecamere di sorveglianza di un carcere. Le telecamere di sorveglianza erano i nostri occhi. Eravamo noi, i nostri studenti, gli agenti della polizia penitenziaria di Rebibbia. A Rebibbia non è stato torto il capello a nessuno. A Rebibbia sono rientrate le rivolte in poche ore. È stata trovata una mediazione. Già due giorni dopo c'erano i cavi di fibra che portavano le videoconferenze con i parenti, quindi quella mancanza di contatto con i congiunti, con le mogli, con i figli, con le madri, che ha spinto tanti detenuti a ribellarsi, non comprendendo bene esattamente cosa stesse succedendo fuori. Io penso, Federico, che nemmeno noi avessimo ben capito cosa stesse succedendo. Il disagio, quella disperazione di trovarsi isolati là dentro è stata rapidamente superata importando dentro 100 tablet. E dopo 3-4 giorni dalle rivolte già c'erano tutti i tablet sui desk in teatro e tutti i detenuti potevano parlare con i familiari come non avevano mai fatto prima, vedendo la casa di famiglia, vedendo il cagnolino, vedendo la gatta, vedendo i bambini, vedendo i nonni che non vanno ai colloqui, ritrovando un clima familiare che non ha sicuramente sostituito l'incontro fisico, lo stringersi la mano, darsi un abbraccio, ma ha mitigato quel danno terribile che è stato imposto dalla pandemia. Per saperne di più su questo tuo lavoro, ci dai dei riferimenti internet? Se uno digita, googola, trova Rebibbia Lockdown, Fabio Cavalli, il film è stato presentato in anteprima come evento speciale alla Mostra del Cinema di Venezia, la 78esima mostra, il 9 di settembre scorso, quindi però la prima uscita è proprio quella del 13 ottobre, lì al Cinema Aquila, con repliche 14, 15 e 16. Il film è destinato a quanto insomma si dice nella struttura produttiva che lo ha voluto e che lo sta proteggendo in un difficile cammino del cinema contemporaneo. Mi dicono che insomma sarà in 100 sale con proiezioni riservate soprattutto agli studenti delle scuole superiori e delle università. Penso che quello sia il target fondamentale, la formazione dei giovani, la formazione del concetto di legalità e di giustizia presso le giovani generazioni. Poi sarà in tutte le carceri italiane e faremo un'anteprima Rebibbia alla quale tutti sarete invitati attorno ai primi di dicembre, diciamo. Rebibbia Lockdown, Cinema Aquila, correte. Dal 13 al 16 ottobre un saluto e un ringraziamento al regista Fabio Cavalli. A presto! A presto, grazie a tutti e a tutte. Daniele Lupi del Cine de Tour sul film La Cordigliera dei Sogni di Patricio Guzman a Roma al Cine de Tour sabato 16 ottobre 2021. Daniele, ben trovato. Ciao Federico, ben trovato a te, ben ritrovati tutti. Tra l'altro un film che segna l'inizio della nuova programmazione del de Tour. Sì, abbiamo aperto il fine settimana precedente con due titoli e adesso passiamo da questo fine settimana alla nostra consueta programmazione venerdì, sabato e domenica. Contiamo di ampliarla ulteriormente, però per adesso è un film venerdì, un film sabato e un film domenica. Siamo partiti con il documentario sul Dune di Jodorowsky, con Corpus Christi, che è un film di finzione polacco che era candidato all'ultima edizione degli Oscar come miglior film straniero. E aggiungiamo adesso questo La Cordigliera dei Sogni di Guzman, che è un documentario veramente meraviglioso. Non siamo riusciti a programmarlo quando è uscito in estate, perché è uscito a metà giugno e noi verso la fine di giugno abbiamo chiuso e non siamo riusciti a prenderlo subito e quindi c'era rimasto così sull'agenda tra i titoli da proiettare e quindi adesso abbiamo colto subito l'occasione per rimetterlo in programmazione. Il film è parte di una trilogia di Patricio Guzman sulla storia e la memoria cilena. Il primo film nel 2010 è stato Nostalgia della luce e poi seguito nel 2015 da La memoria dell'acqua e adesso è uscito nel 2019, in realtà è stato presentato per il concorso a Cannes nel 2019, questa è La Cordigliera dei Sogni. Il tratto comune di questi tre film è che partono da Eterna e immutabile della natura per poi focalizzarsi sulla storia particolare umana che è poi l'esperienza di vita del regista stesso, che esule dal Cile dall'inizio della dittatura di Pinochet nei primi anni 70 e non è mai più tornato a vivere nel suo Cile, però ha continuato a lavorare sul Cile facendo film, producendo film documentari, quasi la totalità della sua produzione è sul Cile, sulla storia del Cile, sulla memoria del passato e sugli orrori soprattutto della dittatura. Cosa ti ha impressionato maggiormente di questo lavoro? Sicuramente la parte nella quale il film passa appunto dall'universale bellezza eterna della cordigliera a raccontare invece le storie particolari di chi ha vissuto gli orrori della dittatura cilena, e in particolare la storia di Pablo Salas, un filmmaker di Santiago che ha filmato la dittatura dalla fine degli anni 70, ha iniziato a filmare, a riprendere tutte le proteste che sistematicamente erano represse dalla polizia e ha continuato ininterrottamente fino ad oggi, quindi ha un suo archivio personale che il regista nel film definisce una macchina del tempo, nella quale un po' il regista si è perso e della quale ci riporta molte sequenze molto molto indicative, come a dire c'è ancora tanto da indagare, tanto da scoprire su quel passato, perché i politici continuano a parlare di errori che sono stati commessi, ma nessuno vuole parlare degli orrori commessi in quel passato oscuro. Daniele, come esce il Detour da questa chiusura forzata dovuta all'emergenza Covid e alla campagna che aveva lanciato di sottoscrizione? Cominciamo con il dire che noi nell'ultimo anno siamo stati effettivamente aperti per un totale di circa 3 mesi, per cui la parte più dura effettivamente più del lockdown è stata questa ripresa, perché abbiamo riaperto e richiuso, e questo è stato sicuramente difficile da affrontare. Quello che ci ha dato energia veramente in tutto questo tempo è stato proprio l'esito di quella campagna di sensibilizzazione e finanziamento che abbiamo aperto ai nostri soci, ma anche oltre, insomma sappiamo che quello che è in rete ormai lo possiamo considerare pubblico, e la risposta è stata così gratificante che ci ha veramente convinto a non mollare, a resistere. Anche a settembre scorso, dove abbiamo investito soldi per ristrutturare, acquistare macchinari, sanificare, ristrutturare il locale secondo quelle che erano le nuove normative, poi siamo durati veramente meno di un mese e ci hanno richiuso. Quello è stato il momento più duro. Adesso ci sentiamo che ci siamo e che le cose possono continuare. Chiaramente a Detour si entra con il Green Pass e rispettiamo tutte le normative, però speriamo di poter aumentare la capienza della sala oltre i 30 posti attuali, di poter piano piano tornare a riempirla. Ci lasci tutti i vostri riferimenti per saperne di più? Il Detour si trova fisicamente in Via Urbana 107, virtualmente si trova su cinedetour.it e su Facebook alla nostra pagina Cinedetour. Daniele Lupi del Cine Detour sul film La Cordigliera dei Sogni di Patricio Guzman, a Roma al Cine Detour sabato 16 ottobre 2021. Il regista Luigi Zannetti sul suo documentario Rocca Strada 1921, Paese a Ferro e Fuoco, proiettato a Roma al Casale Alba 2 domenica 17 ottobre 2021. L'evento comprende anche un pranzo sociale e la presentazione del libro Quando il fumo si dirada. Ben trovato. Buongiorno. Raccontiamo a chi ci ascolta la storia. È una strage fascista, squadrista, anzi per la precisione, avvenuta a Rocca Strada, un paese della Toscana meridionale, il 24 luglio 1921. Il documentario è stato fatto appunto per l'occasione del centenario della strage e parla degli avvenimenti a un gruppo di squadristi che entrano nel paese e proprio per la presa del potere dei comuni che c'era in quel periodo, quella tendenza proprio a prepararsi dei comuni, del potere comunale che diventava sempre più importante, fecero appunto questa strage, una strage indiscriminata senza apparentemente nessun motivo apparente nella scelta delle vittime. L'antefatto della strage era un telegramma inviato da Firenze, dal capo degli squadristi di Firenze, Perrone Compagni, che intimava il sindaco a dimettersi perché ovviamente secondo lui i tempi erano cambiati sbagliati e quindi nessuno cittadino, ovviamente è una cosa erronea, nessun cittadino aveva più la fiducia in lui e quindi doveva lasciare il campo ai fascisti e doveva dimettersi, dando proprio un ultimatum. Il sindaco non si dimise e al seguito di questa mancata dimissione del sindaco ci fu questa rappresaglia fascista, dove vennero uccise 10 persone, 10 cittadini di Roccastrada. Tra donne, anziani e bambini anche. Donne, anziani, bambini non direttamente, ma insomma videro e subirono indirettamente la strage, cioè addirittura il racconto di un bambino all'epoca che vede il nonno ucciso durante questa furia squadrista, perché dobbiamo precisare che la prima ondata dell'aggressione squadrista fu semplicemente un'intimidazione, cioè distrussero case, dettero fuoco a pagliai, insomma fecero danni materiali e picchiarono persone. Quando poi uscirono dal paese, un loro camerata fu ucciso, ovviamente poi dalle ricostruzioni abbiamo capito, anche dagli atti giudiziari, che molto probabilmente fu un colpo accidentale partito all'interno del camion, quindi è stata una morte accidentale, anche perché dobbiamo ricordare che loro bevvero molto, erano ubriachi, come dice un testimone, quando andarono via dal paese, e gridarono all'attentato comunista e ritornarono in paese e lì la rappresaglia fu ferocissima e lì proprio ci furono le peggio aggressioni, ma proprio molto violente, e infierirono anche sui cadaveri, ecco, per dare l'idea della violenza. Prima del telegramma però c'era stato anche un altro precedente, ossia delle rivolte contadine contro i proprietari terrieri nella zona. Certo, era il periodo in cui c'era la compagine socialista che lottava per strappare migliori condizioni sia nelle città contro gli industriali, insomma, e sia nelle campagne verso gli agrari. E un possidente dell'epoca di Civitella Paganica, un paese vicino che possedeva la maggior parte delle terre, fu oggetto proprio di una dimostrazione, una rivendicazione da parte dei contadini per ottenere migliori condizioni lavorative, a cui si dice avesse partecipato anche il sindaco di Roccastrada. Questa fu un po' una scusa per la prima azione. Questo è una dimostrazione lampante di come gli squadristi fossero una sorta di guardiani dei proprietari terrieri, come lo erano stati i briganti all'inizio della storia repubblicana e poi i mafiosi. Sì, diciamo che i proprietari terrieri sfruttarono appunto il fenomeno dello squadrismo per assoldare persone, per potersi non solo difendersi ma anche aggredire, e quindi sì. Poi però, come si vede anche nel documentario, se guardiamo la composizione sociale delle due parti, era molto simile, molto veniva dal reducismo, molte persone erano anche facilmente assoldabili, persone disperate, persone anche che avevano già commesso omicidi, persone anche molto, questo per la parte ovviamente squadrista, anche già predisposte alla violenza, e sì, i proprietari terrieri colsero l'occasione per manipolarli e sfruttarli, e loro ovviamente avendo poi interessi anche politici comuni, insomma, accettarono volentieri, insomma è facile capirlo. Il documentario è realizzato grazie all'Istituto Storico Grossetano della Resistenza e dell'Età Contemporanea. Com'è stato il rapporto? La collaborazione dell'istituto ovviamente è stata fondamentale, perché tutto parte da una ricerca dell'istituto storico commissionato dal comune di Roccastrada appunto per il centenario, e infatti il documentario è stato presentato per la prima volta a Roccastrada il giorno del centenario, e la ricerca storica appunto che c'è dietro si poggia sulla ricerca dell'istituto, in particolare Ilaria Cancella, Stefano Campagna. Poi Stefano Campagna è stato anche, insieme alla Cancella, il consulente appunto storico del lavoro. Infatti tanto è vero che io e Stefano ci siamo appunto guardati documenti, interviste, e ha contribuito molto alla scrematura del materiale. Esistono anche registrazioni audio delle testimonianze. Ecco, una cosa interessante appunto del documentario, forse con il valore aggiunto, è proprio questo, che durante il riordino dell'archivio di Roccastrada, appunto sempre all'opera del Risgrec, è stato ritrovato questa audiocassetta, una registrazione del 72, quasi un ritrovamento archeologico, no? In cui c'erano le testimonianze appunto registrate all'epoca da un funzionario comunale di Roccastrada di persone ormai anziane che avevano assistito direttamente alla strage, testimoni oculari. Persone anche che avevano avuto dei lutti in famiglia, cioè proprio coinvolti direttamente dalla strage. Nel complesso, che impressioni ne hai ricavato da questo viaggio nella memoria e dalla realizzazione del documentario? Mi ha sorpreso, perché nonostante sia tanto tempo che io lavoro con l'istituto, tanti anni, e per cui per loro realizzo anche documentari storici, abbiamo fatto un lavoro lungo insieme, ecco, devo dire che pensavo di avere un po' l'idea generale, no, del periodo storico del Novecento, soprattutto rivolto a questi avvenimenti e a questi argomenti. Invece mi sono reso conto che del prefascismo se ne sa poco, è un periodo quasi inesplorato, no, perché è lontano nel tempo, perché comunque poi la guerra, la resistenza ha un po' oscurato, e mi ha molto interessato, ecco, la parola che mi viene in mente è interesse, un forte interesse, perché ho scoperto un periodo storico in cui in genere si tende a semplificare, in realtà è molto complesso, gli stessi attori si intrecciano, come si diceva prima anche la composizione sociale delle due parti era molto simile, si veniva appunto da una prima guerra mondiale, da una violenza diffusa, da un periodo di insicurezza, una profonda crisi, e ovviamente, ma è un po' banale dirlo, ma secondo me va ridetto, un periodo di crisi è sempre importante studiarlo, perché ci aiuta poi a comprendere le crisi moderne, le crisi contemporanee, e quindi l'ho fatto con molto interesse questo documentario. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti internet per saperne di più? Sì, il documentario è presente su Vimeo, nella pagina dell'istituto, ma anche su YouTube, sempre nel canale dell'istituto storico Ygrec, e anche sul sito dell'istituto Ygrec, www.ygrec.it. Il regista Luigi Zannetti sul suo documentario Rocca Strada 1921, Paese a Ferro e Fuoco, proiettato a Roma al Casale Alba 2 domenica 17 ottobre 2021. L'evento comprende anche un pranzo sociale e la presentazione del libro Quando il fumo si dirada. Con Davide Olori di EDT, Emidio di Treviri, per parlare di questo progetto e del documentario Le Terre di Tutti, un documentario collettivo per la regia di Ferdinando Amato. Davide, ben trovato. Grazie, grazie a voi, grazie a tutti. Partiamo dalla realtà Emidio di Treviri, ci racconti? Dopo il terremoto dell'Italia centrale del 2016 siamo nati come gruppo di ricerca e di ricercazione. Dall'inizio abbiamo lavorato insieme alle reti di solidarietà che si sviluppavano dal basso, quindi anche con le brigate di solidarietà attiva, e poi ci siamo costituiti come gruppo di ricerca indipendente, che tuttora è l'unico gruppo che ha fatto ricerca da diverse prospettive disciplinari, quindi scienze sociali, geografia, ma anche economia rurale, e che ha prodotto dati e ha cercato di produrre un'analisi di quello che stava succedendo ai nostri territori nel dopo lungo sisma. Abbiamo prodotto dei libri, il primo è stato Sul fronte del sisma, edito con Deriva Prodi, il secondo è appena uscito, si chiama Sulle tracce dell'Appennino che cambia, e facciamo eventi pubblici e abbiamo fatto diverse linee di ricercazione che hanno cercato di trasformare l'analisi in intervento sul territorio. Abbiamo anche fatto appunto il documentario di cui hai parlato. E questo documentario come nasce, come opera collettiva? È un documentario che parla di un antico istituto di gestione collettiva delle nostre terre, soprattutto rimasto nelle aree montane, quello delle comunanze, che insiste su in montagna di quasi tutta l'Italia. Attraverso appunto un'organizzazione orizzontale si gestivano i beni comuni, l'acqua, i pascoli, i boschi, nell'interesse collettivo e soprattutto della tutela della sua durabilità nel tempo. Quindi siamo partiti dallo studiare questo strumento a disposizione delle persone che abitavano ancora quei territori, che stava lentamente scomparendo, comunque era ampiamente sottovalutato, e abbiamo cercato di fare un documentario che in primis fosse utile a chi in quei posti ci viveva per sapere, per conoscere nell'immensa ricchezza su cui erano seduti e il metodo orizzontale che potevano recuperare per la gestione di questi beni comuni. Da lì è cominciato un percorso di ricerca sugli usi collettivi che ci ha portato da un lato appunto ad accompagnare quelli che già erano esistenti, a tentare di farne nascere di nuovi e nonché a supportare tutte quelle lotte territoriali che utilizzano l'uso civico come uno strumento per opporsi a strategie di sviluppo che poi hanno a che vedere con le nostre terre. Quindi siamo stati a fianco per esempio insieme a Balea d'Ascollare per opporci ai nuovi impianti sciistici sulla montagna del Terminillo, oppure siamo a fianco alla comunità di Gualdo Tadino che combatte per riappropriarsi della propria fonte d'acqua che oggi è gestita da Rocchetta, tutto sempre utilizzando soprattutto gli usi civici. Ecco. Il documentario dove si può trovare? può essere scaricato da OpenDDB, un progetto di distribuzione dal basso, una piattaforma appunto di produzione collettiva dell'audiovisivo, su cui potete trovare Le Terre di Tutti, regia di Ferdinando Amato e Marilyn Mantineo, e una produzione di MP3 di Radio Solidarietà. Basta un piccolo contributo da 50 centesimi in su, quanto ritenete opportuno, e potete scaricare il file. Per noi l'importante è che il documentario sia visto e condiviso, quindi non importa il prezzo del contributo, ecco. Per maggiori informazioni ci dai tutti i vostri riferimenti web? C'è un sito, appunto, emidioditreviri.org, se noi ci trovate sui social con l'hashtag emidioditreviri. Facciamo appunto un ciclo di presentazioni in giro per l'Italia verso il nuovo libro, se no quando siete di passaggio tra i Sibillini e Monti della Laga basta scriverci e veniamo in contatto. Insieme a questo libro, come si stanno articolando per il futuro prossimo le vostre battaglie su usi civici, comunanze agricole e beni comuni? Cerchiamo di portare avanti le battaglie su diverse linee, che siano quelle di riattivazione degli usi civici attraverso le mappature degli antichi usi civici a livello catastale, per poi avviare delle nuove comunanze, sia cercando di fare processi di empowerment, come si dice, cioè di consapevolezza con le persone che vivono nei territori alti rispetto alle potenzialità di questi strumenti, e anche di lotta, come dicevo, rispetto appunto all'utilizzo degli usi civici per opporsi a certe grandi opere. Tutto questo lo facciamo studiando, ma anche cercando di affiancare le popolazioni dentro i processi di recupero degli usi civici, che sono appunto collettivi e di tutti, e che hanno anche un senso profondamente ecologico, perché l'uso civico specifica appunto che una delle necessità fondamentali sia la durabilità del bene in eterno, quindi il suo mantenimento, e il mantenimento del bosco, del pascolo, della fonte d'acqua. E su questo ci sembra che, insomma, la crisi climatica che stiamo vivendo abbia molto da dirci rispetto alla potenzialità di questi strumenti in chiave ecologica anche. Ecco, queste battaglie dimostrano che sono praticabili e replicabili. Esatto, sono strumenti alla portata di tutti, e basterebbe semplicemente guardarsi indietro e vedere come recuperare in chiave moderna attuale quella gestione, che era una gestione armoniosa tra l'uomo e l'ambiente, e che sicuramente le società rurali conoscevano meglio di noi, insomma. Tutti gli anni ci vediamo per parlarne durante una summer school che facciamo a fine estate sui Monti della Laga. Anche di questo trovate tutte le informazioni online, però ci piace ricordarci che questi percorsi partono sempre dallo studio, ma poi finiscono dentro a dei percorsi di lotta e di riappropriazione dal basso, insomma, e che è quello che per cui crediamo serva la scienza, serva un sapere schierato e con pratiche militanti, ecco. La realtà Emidio di Treviri e il documentario collettivo Le Terre di Tutti. Un saluto e un ringraziamento a Davide Oloi. A presto! Un ringraziamento a voi per lo spazio e buona vita a tutti. Ciao. Con uno dei curatori della comunicazione per presentare l'avvio della programmazione di scena Spazio Cinema Eventi e Nuove Arti da venerdì 24 settembre 2021. Ben trovato. Buonasera a tutti quanti, a tutte gli ascoltatrici e ascoltatori. Cos'è scena? È uno spazio riaperto dalla Regione Lazio il 7 giugno, al cui interno ci sono una serie di iniziative che riguardano per lo più il cinema, ma che riguardano anche le nuove arti, la letteratura, lo spazio eventi. Quindi dal momento dell'apertura a giugno ci sono state una serie di rassegne cinematografiche che hanno visto coinvolte varie personalità del mondo del cinema come Susanna Nicchiarelli, Daniele Vicari, Eleonora Danco. Ci sono state anche rassegne tematiche come il Festival Mujeres, oppure la rassegna della Settimana della Critica a Venezia, la rassegna curata dal Film Studio sui César d'Oro e i cortometraggi, il Festival Queer. Insomma, è un programma che cerca di dare voce e anche ascolto a tutte quelle che sono anche le realtà cittadine, regionali e anche internazionali, anche attraverso un comitato di indirizzo che vede al suo interno molte voci del cinema, appunto, nazionale, regionale, cittadino. Come era nato il progetto? Dal recupero del Film Studio. Per cui dove scena in via degli Orti della Liberta c'era il Film Studio, uno dei più antichi e molto noti e sicuramente citati cineclub italiani. I locali a un certo punto stavano andando in disuso e c'è stato un tentativo di recupero e ripristino da parte della regione. Com'è strutturata la gestione? attraverso un comitato di indirizzo, per cui tutti coloro che sono all'interno del comitato di indirizzo propongono rassegni cicli. Ad esempio la Scuola Volontè ha proposto una rassegna che si chiama Buona la Prima, dove vengono visti anzitutto i film dei talenti del cinema italiano, e poi si fa una chiacchiera con i registi, con le registe, anche con le persone, con le maestranze, gli attori. Ad esempio nel caso della Volontè c'è stato Corpo Celeste, di seguito c'è stata una chiacchierata molto amabile con Alice Rohrwacher, ma ci saranno anche i documentari dell'Istituto Luce. Amod presenta alcune proposte d'archivio, ci sono anche le rassegne alcune volte tematiche, collaborazioni con molti festival, dallo Slow Film Fest che è il Mad Film Fest. E poi ci sono anche dei curatori esterni che propongono delle rassegne, ad esempio una delle prossime rassegne che faremo sarà di Adriano Aprà, ex Film Studio, Fuori Norma si chiamerà. È prevista un'attività quotidiana con dei giorni fissi dedicati a qualche evento? Il martedì tendenzialmente è questo di Opera Prima, il mercoledì è dedicato al documentario, non sono tutte le settimane perché poi magari ci sono gli altri appuntamenti come la Festa del Cinema, in questo caso appunto Scena sarà una delle sale della Festa del Cinema. Per tutte le informazioni ci sono dei riferimenti web? Sì, c'è il sito scenaweb.it e ci sono anche una pagina Instagram e Facebook, Spazio Scena. Tra l'altro un'altra cosa che mi piace aggiungere è che anche attraverso i social si possono anche proporre eventi che non riguardano soltanto il cinema. Ad esempio fra i prossimi eventi che faremo ci saranno anche presentazioni libri, per esempio Alan Pauls col suo ultimo libro, uno scrittore argentino molto bravo, il libro si chiama La Meta Fantasma, e per rappresentarlo insieme a Ilaria Gaspari proprio all'interno di Scena, che ha due sale, questo mi ci tengo a precisarlo, una sala cinema e l'altra sala che è una sala caffetteria polifunzionale dove si possono fare anche degli incontri. A questo proposito, a quali progetti si sta lavorando? I prossimi progetti è un po' lo spoilerati dicendoti la partecipazione con alcuni festival e la rassegna di Aprà. Qua c'è anche una rassegna di Costanza Quadrigli in programmazione, ci sono i festeggiamenti della Scuola Volontè che è al suo decennale. Quindi ci sarà una rassegna dedicata a loro e da loro curata. Ci saranno anche appuntamenti curati dal Film Studio, quindi sul cinema sperimentale a fine novembre, e il 25 novembre è una giornata tematica sempre del Film Studio sulla violenza contro le donne. Beh, i riferimenti ce li hai dati, ricordiamo Scena, Spazio Cinema, Eventi e Nuove Arti, da venerdì 24 settembre 2021, la nuova programmazione, un saluto e un ringraziamento al curatore della comunicazione. A presto! A presto a tutti e a tutte su Radio Onda Rossa, viva Radio Onda Rossa, ciao! Tutta Scena Cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.